ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su Aruba.it. Radio 24 Reportage. Luci spente a Barcellona. La movida che non c'è, di Mario Magarò. Come da tradizione, i suoni della festa di San Juan riecheggiano nel centro di Barcellona in occasione del 23 giugno, una giornata sinonimo di festa in tutta la penisola iberica, che celebra idealmente l'inizio della stagione estiva. Quest'anno però, complice la chiusura al pubblico delle spiagge disposta per l'occasione dalle autorità, si è trattato di una festa di San Juan celebrata in tono minore, convertitasi suo malgrado in specchio fedele di una Spagna ancora convalescente dopo lo scoppio del coronavirus, che ha fatto registrare circa 250.000 contagi ed oltre 28.000 morti nel paese iberico, uno dei più colpiti a livello mondiale. Como saben, España se enfrenta a una emergencia de salud pública que requiere decisiones extraordinarias. Come sapete, la Spagna sta affrontando un'emergenza sanitaria che richiede decisioni straordinarie. Una pandemia globale che danneggia gravemente il benessere di tutti i cittadini. Una crisi sanitaria, economica e sociale che affronteremo con il massimo rigore e con tutte le risorse necessarie. Ma le misure che adotteremo saranno drastiche e comporteranno conseguenze, affermava lo scorso 14 marzo il premier spagnolo Pedro Sánchez, annunciando l'attivazione dello stato di allarme per contrastare la diffusione del coronavirus. Sulla base dello stato di allarme, il governo spagnolo ha quindi imposto una quarantena obbligatoria a tutti i residenti sul territorio nazionale, misura accompagnata dal blocco delle attività produttive non essenziali e dalla chiusura delle frontiere. Il suono degli applausi rivolti da balconi e finestre all'indirizzo del personale sanitario impegnato in prima linea nella lotta al Covid-19 si è quindi convertito in colonna sonora delle lunghe giornate trascorse dalla popolazione in regime di lockdown, mentre il Ministero della Sanità aggiornava costantemente il bollettino relativo all'evoluzione della pandemia. 5.252 nuovos casos contagiados, ya totalizan en España 188.068 casos. Hemos tenido 585 fallecidos, ya totalizan los fallecidos en España 19.478 y hemos tenido la buena noticia de tener 3.502 personas que se han recuperado. Il governo spagnolo ha decretato in totale 6 proroghe dello stato di allarme, allentando progressivamente le restrizioni alla mobilità fino all'entrata in vigore della fase definita di nuova normalità a partire dallo scorso 21 giugno, che ha sancito la riapertura delle frontiere ai paesi dell'area Schengen, permettendo al tempo stesso piena libertà di movimento all'interno dei confini nazionali. Le severe misure adottate per frenare la diffusione del coronavirus hanno però avuto un inevitabile impatto sul tessuto economico e sociale del paese, causando la distruzione di circa 1 milione di posti di lavoro durante la quarantena imposta dal governo. Numeri a cui si aggiunge una caduta di circa 10 punti del prodotto interno lordo, secondo le stime del Banco di Spagna. Desde 14 de marzo tengo ristorante cerrado. He enviado más de 50 trabajadores al paro. Somos autónomos, no tenemos amnistía fiscal. La richiesta di aiuto che alcuni ristoratori hanno rivolto alle autorità attraverso le reti sociali rappresenta soltanto la punta dell'iceberg della difficile condizione in cui versa tutto il settore della ristorazione, il più colpito in termini di perdita di posti di lavoro insieme a quello alberghiero, che dal canto suo ha registrato perdite per oltre 3 milioni di euro negli ultimi mesi. Una situazione vissuta in prima persona da Sandra Tamayo, insieme al marito proprietario di un ristorante nel porto turistico di El Masnou, località balneare nei pressi di Barcellona. Nosotros vinimos el viernes a trabajar, me acordaré, y teníamos el restaurante lleno a mediodía. Siamo venuti a lavorare il venerdì. Avevamo il ristorante pieno a mezzogiorno ed alcuni tavoli prenotati per la sera. Appena arrivati qui, la gente ha cominciato però a dirci che il giorno dopo non avremmo potuto aprire. Terminata la giornata di lavoro siamo tornati a casa senza poter fare più ritorno al ristorante, obbligati a portare con noi tutte le scorte di cibo da smaltire per non buttarle via. Da quando abbiamo riaperto siamo stati contattati da molte persone in cerca di lavoro, qualcosa di impensabile negli anni scorsi. Piuttosto eravamo costretti ad assumere il primo che passava e vedere poi come andava a finire. Adesso siamo invece pieni di curriculum di qualità inviati da professionisti del settore che cercano lavoro. Están cubierto con gente cocineros buenos. L'onda lunga degli effetti del coronavirus non ha risparmiato nemmeno il settore del commercio al dettaglio, che ha fatto registrare un drammatico crollo delle vendite nei mesi del lockdown. Secondo un sondaggio della Fondazione Barcellona Commercio, circa il 4% degli esercizi commerciali del capoluogo catalano ha abbassato definitivamente le saracinesche, una percentuale destinata a salire intorno al 15% entro la fine dell'anno. Giorgio Gandossi, da 6 anni titolare di una sartoria nel centro di Barcellona, racconta nei dettagli le difficoltà del momento. Economicamente è stata abbastanza dura, perché proprio quando c'è stato tutto questo processo, tanto in Italia come in Spagna, è successo proprio nei mesi più forti dell'anno in funzione di vendite qua nel nostro settore. Veniamo abiti su misura e abbiamo perso proprio la stagione di spose, battesimi, comunioni, dove sono i mesi che si vende più di tutto l'anno. In più, tra l'altro, in più, avendo perso tutte le cerimonie, ho perso anche il mio cliente dell'ufficio che veste a diario con giacca, cravatta, già che stanno tutti lavorando da casa. Adesso ho 2 persone contrattate e non ho lavoro per loro da dargli. E questa è la ripercussione dei mesi anteriori che si è fatto poco niente. Che nos queda una caña pendiente y haremos que en cada terraza sea viernes. Que el Museo del Prado le ha dicho a sus cuadros que vas a volver para verles. Per promuovere l'immagine della Spagna dopo la riapertura delle frontiere, il governo ha lanciato una campagna pubblicitaria che si inserisce nel piano di aiuti da 4.000 milioni di euro approvato in favore del comparto turistico. Un settore decisivo, che contribuisce per il 12% al prodotto interno lordo spagnolo, dando lavoro ad oltre 2 milioni e mezzo di persone. La recuperación del turismo es una de nuestras mayores fortalezas. Lo fu nel passato, e qui si è detto, e lo va a ser nel futuro. Recuperare il turismo è una delle nostre priorità, un settore che offre sicurezza economica e che rappresenta una delle garanzie e dei punti di forza del nostro paese, ha ribadito con fermezza il Premier Sanchez, dando il via libera ad un piano di salvataggio atteso con ansia dagli esponenti del settore, in coincidenza con l'inizio della stagione estiva. Gli aiuti a sostegno dell'industria turistica rischiano però di avere l'effetto di un semplice balsamo per il tessuto economico del paese, soffocato dalla mancanza di liquidità. Consideriamo tutto il settore che sono insufficienti e che hanno arrivato tardi. Riteniamo che le misure adottate siano insufficienti e che siano arrivate tardi. Avrebbero potuto iniziare a prenderle 3 mesi fa. È vero che le aziende hanno potuto beneficiare dei sussidi di disoccupazione per i propri dipendenti, ma i prestiti annunciati sono arrivati in ritardo e con tassi di interesse per nulla simili a quelli inizialmente previsti dal governo. Tutte le misure adottate sono state inoltre difficili da interpretare da parte dei commercianti. Non sono state misure prese con il tempo o con una certa lungimiranza, il che ha finito col generare molti dubbi nella categoria, piuttosto che infondere la sufficiente fiducia che ci saremmo aspettati in questo senso. Non ha dato confianza, la sufficiente confianza che avremmo sperato in questo senso, no? Salva Vendrell, presidente della Fondazione Barcellona Commercio, contesta duramente il pacchetto di misure economiche adottate dal governo per fronteggiare lo scoppio della pandemia del coronavirus, puntando il dito soprattutto contro la decisione di concedere un semplice slittamento delle scadenze fiscali ad imprese e liberi professionisti. Todas las amministraciones, la local, la autonomica o la... Tutte le amministrazioni, sia quelle centrali che le comunità autonome, ci sono sembrate insufficienti fin dall'inizio. Quando parliamo di imposte, noi ci riferiamo a una moratoria fiscale, alla necessità di non pagare le tasse, piuttosto che rinviarne semplicemente il pagamento ai prossimi mesi. Hay que pagarlo sì o sì. Con l'avvento della fase della nuova normalità, molte attività commerciali hanno potuto riaprire perché contavano su uno stock di materiale rimasto invenduto nei mesi del lockdown, vincolando di fatto la propria sopravvivenza all'evoluzione delle vendite nelle prossime settimane e alla ripresa dell'attività turistica. Una situazione di incertezza aggravata dal rischio di una nuova emergenza sanitaria, come sottolinea Nuria Parisio di Barcellona Oberta, ente che riunisce le principali associazioni commerciali del capoluogo catalano. Se hubiera un nuovo rebrote e hubiera che cerrar de nuevo e confinare la popolazione de nuevo. Se scoppiasse una nuova epidemia di coronavirus, obbligando nuovamente la popolazione alla quarantena, sarebbe la rovina del paese, afferma la direttrice dell'associazione. Sostenendo che gli unici ad aver tratto realmente beneficio da questa situazione siano state le grandi piattaforme digitali e i supermercati, che continuerebbero a generare profitti nel caso di una nuova ondata del virus. Mentre il commercio, il settore alberghiero e tutto ciò che è vincolato al turismo sarebbe destinato a scomparire. Da parte delle associazioni di categoria c'è soprattutto l'esortazione rivolta alle istituzioni e dai mezzi di comunicazione nazionali di diffondere un messaggio di fiducia per la clientela, evitando la diffusione di facili allarmismi che possano danneggiare ulteriormente l'economia nazionale. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.